lunghe parti anche con trasmissioni registrate, compreso il sottoscritto, magari anche un po' inflazionato, ma tant'è. Quindi adesso si va in diretta e io comincio a salutare una serie di affezionati che rispondono al nome di Maya in Sardegna, Francesco Cornello in quel di Bergamo, Sirena Velina di Cronaca Nera dall'Emilia Romagna. Marco qui a Roma, Nicola Locci in Sardegna, anche lui. Massimo Oders Mascheroni, naturalmente di Oders, Laura Spiricrusher a Frosinone, Sara Capo Fontana di Progetto No Name al pari di Dario Arrighi, Cecilia Miradoli di Pindar. Lucia Cagliazzen, quel di Udine, come Lupsi, Alberto Clipper, che sentiremo più tardi insieme ad Enrico Cerrato, quindi di Petrolio, Des De Carlo from Boston, Nardi Persegona di Os. Fumi Bondo di Sorologia. Daniele Ciullini, pezzo di Storia Industrial, lo salutiamo. Noi andiamo ad iniziare dunque andandoci ad ascoltare un ulteriore passaggio per quanto riguarda